al Teatro delle Moline dall'11 al 22 gennaio, quindi già andato in scena, ma sarà, come ho detto, fino al 22 a Casa Bambola. È immediato, no? L'ispirazione Casa di Bambola del grande Ibsen di Roberto Scappin e Paola Vannoni, che è qui con noi. Buongiorno, benvenuta su Radio Città Fujiko, Paola. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie. Partiamo dal titolo, ovviamente. Vedo alla fine, a casa, bambola, un punto esclamativo. È un intimare, a dispetto... È un imperativo, è un imperativo. Eh già, sì. Beh, quando una donna tenta di allontanarsi dal focolare domestico, molto spesso l'uomo la richiama ai suoi doveri, i suoi doveri sacri, come dice Torvaldo, il protagonista di Casa di Bambola, appunto. E quindi abbiamo voluto enfatizzare un po' questo aspetto del titolo, già dal titolo. La narrazione quindi tratta di un allontanamento spontaneo, cioè ci puoi parlare un pochino perché già si intuisce, però entriamo sul palcoscenico senza certo. Svelare ovviamente. Allora no, noi siamo partiti dal terzo atto di Casa di Bambola, che è l'atto in cui Nora, la protagonista, decide di lasciare il marito. E abbiamo intercettato una recensione di Gramsci del 1917, se non ricordo male, in cui ci racconta che il pubblico è rimasto raggelato da questa decisione di Nora, nonostante nei primi due atti gli abbia dato tutte le informazioni, insomma, per aderire a questa scelta della donna. E perché il pubblico rimane raggelato quando la donna decide di andarsene? È un problema anche attuale, se vuoi, no? Cioè, il momento in cui la donna se ne va e l'uomo non gestisce, non sa gestire questo abbandono, che a volte ha anche dei risvolti drammatici, tragici, no? Possiamo sì. Vedere che ogni tre giorni una donna viene uccisa perché abbandona il compagno, il marito. Quindi siamo partiti dal terzo atto e abbiamo immaginato come recuperare questa vicenda, non attualizzandola, ma entrando proprio dentro il tema dell'abbandono. Poi ovviamente, come nostra cifra, cerchiamo sempre di ironizzare su tutti gli aspetti, insomma, della nostra vita, che ci trovano spesso anche in situazioni grottesche, di impaccio, e qui Torvaldo, il protagonista di Casa di Bambola, è veramente descritto da Ibsen in modo ridicolo. È ridicolo perché si comporta come un bambino quando la donna decide di lasciarlo, e quindi ovviamente abbiamo fatto delle aperture. Il testo di Ibsen rimane una parte marginale, certo. E tutto il resto è scritto da noi sempre sulla traccia di questa vicenda, quindi entra in ballo uno psicologo, entra in ballo un vigile, insomma ci sono altri personaggi che non esistono, ma che noi facciamo esistere sulla scena virtualmente, diciamo. Sì, mi colpisce molto l'idea di, almeno dalla micro sensazione che mi è arrivata in tutti questi concetti, è partire dallo stupore del pubblico di allora, che poi alla fine è assolutamente in dialogo con la contemporaneità, se vogliamo, eh. Esatto. Gramsci scrive proprio, rimane quasi disgustato dalla conclusione. Quindi il pubblico borghese dei primi Novecento, possiamo immaginare, insomma, che non ammetta questo tipo di conclusione, di questo finale non lieto fine, anche se è un lieto fine per la protagonista invece, che a un certo punto decide di dire: ma quali sono i miei doveri sacri? Lui dice la famiglia, i figli, lei dice no. Ho un dovere verso me stessa, e questa affermazione è forte, sì. È forte anche per la donna di oggi. È sacrosanta comunque. Esatto, anche per la donna di oggi che ancora si sacrifica per i figli, il marito, la famiglia, i suoceri, e tutto un elenco di mansioni a cui dovrebbe aderire prima di occuparsi di se stessa, quindi questo è ancora oggi un problema enorme. E forse stiamo facendo anche passi indietro, devo dire, dal mio punto di vista. Ah beh, come trattano in... è una correlazione purtroppo presente, da come viene trattata adesso la cultura, poi a cascata tutte queste problematiche della quotidianità, dell'attualità, della società, ne diventano poi, per così dire, vittima, con l'arretratezza o, come hai detto, col tornare indietro. Comunque, bando alle mie osservazioni. Voglio dire... No, che... non bandiamole, perché diciamo la parte maschile che di chi appartiene, insomma... ha anche una sua visione, no? Cioè, ah, certo. Questa, certo. Sì, una che... sua responsabilità, te la vogliamo dare questa responsabilità? Che me la prendo, guarda. E prenditela, sono... e prendetevela. Sono al vostro fianco però con questi concetti, sappiatelo. Sì, immagino, certo. È una prima assoluta, aggiungo questo, confermi. Sì, ieri sera ha debuttato ed è andata bene, devo dire. Il Teatro delle Moline, che è molto accogliente, quindi abbiamo il pubblico proprio vicino a noi, insomma, in scena con noi praticamente. E quindi è stata una bella serata, spero che, insomma, il pubblico continui a seguirci in queste tante serate, devo dire. Sì, ha una estesa permanenza sul palcoscenico, insomma, fino al 22 gennaio, lo ribadiamo. Esatto, quindi non lasciateci soli, diciamo, insomma... Siamo Radio lì per Città voi. Fugico, no, vedi, è qua al vostro fianco. Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. A casa bambola di Roberto Scappin e Paola Bannoni, che è qui con noi, alla quale auguro una buona giornata. Ciao anche Paola. A voi. Ciao. Grazie. Ciao.